stamattina. Non vedi l'ora di mostrarmi la tua chitarra. Non sono certo un esperto, ma ho colto l'importanza che questo strumento ha per te. E io non posso adesso che immaginare tutto il tempo che dedicherai a suonare. Lo farai perché ci credi, tu vai avanti e non cedi, ma la vita non è facile, tu lo sai già. Sua strada, quante volte sognerai una più bella, ma sappi che comunque vada, sempre accesa in te sarà quella fiammella che il male intorno a te cancella. E io non posso adesso che immaginare tutto il tempo che dedicherai a camminare. Lo farai perché ci credi, tu vai avanti sui tuoi piedi, e ad andare avanti io l'ho imparato anche da te. E ad andare avanti io l'ho imparato anche da te.